Viviamo, viviamo nell'etica, dici che la bellezza rifiora e là fuggevo, fuggevo, ora si deriva voluta. Viviamo nei dolci freni che sono uscita all'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possente va. Thank you. Oh! bollenti spiriti, il giovani arbore, e la dentro col placido sorriso dell'amor, dell'amor, dal dì che disse di vivere, io voglio te. Vivere io voglio a te fedela, sì, dell'universo in me.

Oh,